Allora, sono le 13.41 di venerdì 16 febbraio 2024. Una registrazione che vorrebbe essere breve, però in realtà devo dire fondamentalmente tre cose. La prima, mi sembra che la questione della inadeguata copertura mediatica dei massacri in corso a Gaza abbia fatto un salto di scala negli ultimi tempi. Ci sono tutti i giorni manifestazioni fuori dalle sedi della RAI, di quotidiani come Repubblica, con gente che viene mangalellata. È l'unico modo per assistere a queste scene, vedere quanto sono movimentate e popolate, e andare su questi siti che trasmettono informazioni crude in diretta senza commento, come Local Team, no? Il canale YouTube, non è male, devo dire, perché ti dà l'idea del... La prima domanda è: ma perché queste cose non vanno sul telegiornale? Insomma, i giornali ne parlano quasi di sfuggita. E poi puntualmente nelle discussioni ritorna sempre questa data del 7 ottobre, che per carità è stata invece coperta molto bene da una grande inchiesta del New York Times, molto giusta e sacrosanta, però appunto il problema è un tema di rilevanza che viene dato dalle notizie. Cioè, qui tutti i giorni ne muoiono a decine di civili, bambini, vengono distrutte scuole, ospedali. E l'unico modo per vedere qualcosa è vedere questi video crudi, cioè non intermediati, non raccontati proprio dai media, da chi farebbe questo mestiere. E le persone cominciano a rendersi conto che non è più nemmeno il caso di contestare il piano della realtà, come si è sempre fatto. Si contesta la politica, le leggi. No, adesso si contestano direttamente i media, e mi sembra un grossissimo passo avanti. E sempre a proposito di media, c'è da chiedersi... Ecco, poi è buffo perché, siccome adesso non mi sposto più tanto in auto, ma con i mezzi pubblici, mi capita di registrare così nelle stazioni, come dove mi trovo adesso, stazione Ostiense. In auto era abbastanza facile, perché nessuno si chiedeva: ma perché questo sta parlando? Magari stava al via voce. Oggi è quasi tollerato persino parlare da soli mentre si cammina, come sto facendo. Perché qualche tecnologia potrebbe, per esempio, in questo momento farmi partecipare a una conversazione con qualcuno. Quindi nessuno si fa domande. Siamo abituati a vedere persone che parlano da sole, e quindi anche Pendodelirio è quasi tollerato. E mi ricordo così nei primi anni 70, quando circolavano i primi Walkman, delle persone per il semplice fatto di indossare delle cuffie in città erano considerati un po' dei freak, delle persone un po' strane, eccentriche. Infatti le prime cuffie cercavano di essere il più nascoste possibili, no? Poi quando qualcuno si è reso conto che in realtà si stava segnalando la partecipazione a un processo innovativo, a un nuovo trend d'uso, e naturalmente se ne accorse Steve Jobs, e tutti i prodotti erano diventati molto visibili improvvisamente, no? Prima le cuffiette bianche, poi addirittura i cuffioni. Insomma, una volta sdoganati i cuffioni, io credo che possiamo essere tutti serenamente nerd. Sempre a proposito di media che non funzionano, il problema è anche, sono anche le scuole, comincio a credere. Ci sono scuole di giornalismo che hanno per esempio delle bellissime web radio, come quella che mi ha intervistato l'altro giorno. Ovviamente mi hanno intervistato su che cosa, come succede ormai, sarà la 12ª volta che succede, sugli effetti negativi dei social media sui giovani, no? Puntualmente certificati da serissimi studi, che io non contesto naturalmente, però poi io nelle risposte provavo sempre anche a dire, no? Che c'era una responsabilità nei linguaggi, nelle immagini a cui siamo esposti da decenni, da altri media che non sono i media dell'ultima generazione, che non sono i social media per intenderci. Ebbene, io ho risposto anche a questo, ma poi in onda tutta questa parte non è stata trasmessa, cioè è stata tagliata. E quindi se ai ragazzi di una scuola di giornalismo insegni che devi tagliare ciò che non vuoi far passare, non stai insegnando a fare giornalismo. E infine, Vedi che poi alla fine è venuta una registrazione troppo lunga. Comunque, devo darvi ancora appuntamento a domenica 18 alle 18. Ripeto che faremo un tentativo di Pendo Delirio, che non è un monologo ma è un dialogo a più voci, insieme a Marco Giovenale e Fabio Benincasa. Useremo la funzionalità delle audio chat in streaming di Telegram, abbastanza simile a Twitter Space ma senza personaggi sgradevoli come Elon Musk tra i piedi. E abbiamo fatto anche delle prove tecniche ieri, qualcuno l'avrà notato sul canale, poi l'abbiamo cancellate pudicamente per vedere come funziona. Diciamo che funzionare funziona. Certo, tutto questo suono particolare di Pendo Deliri che sentite anche adesso in sottofondo, la città, le stazioni, il traffico, si perde miseramente. L'algoritmo di compressione interviene e rende molto metalliche le voci. L'atmosfera non sarà quella di Pendo Deliri, però la libertà d'espressione spero sì.